Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo, siamo sempre noi di 451 Frammenti Sonori che ritorna probabilmente ormai per l'ultima volta in questo anno 2011 sulle frequenze appunto delle 23.35 fino alle 2.15, 2.20 circa. Un saluto chiaramente da parte di Elisio Scarpa e solo io, perché avevo già annunciato la scorsa domenica che il caro Max Macchia, compagno di tante avventure e disavventure, non sarà presente stasera in trasmissione. Lo saluto caramente se è ancora presente in ascolto alla radio, e anche un saluto al grande Jerry che è rientrato finalmente dopo un po' di assenza fisica, perché le trasmissioni sono andate sempre in onda, ma almeno ci siamo incontrati per gli auguri. Gli auguri non so di che cosa, forse di buon anno, perché il Natale non è che ci interessi particolarmente, almeno per quanto mi riguarda, tenendo conto anche che i regali credo che saranno abbastanza striminziti quest'anno. I regali ce li ha fatti qualcun altro, il buon Monti, famoso Radio Monti, che ha girato per un po' di tempo, sembravano tutti uniformati in questa grande svolta, adesso ci ritroviamo alle carceli, le ferite e qualcos'altro. Entrando nel merito della trasmissione, dunque 451 Frammenti Sonori dovrebbe chiudere qui per l'anno 2011, ci ritroveremo probabilmente dopo il 6 di gennaio del 2012 per ripartire con la programmazione radiofonica, e stasera portiamo avanti un discorso forse anche per fuoriuscire da questa realtà un po' misera, un po' provinciale, un po' autoreferenziale italiana e ancora di più bolognese. Abbiamo già fatto due o tre trasmissioni che rappresentavano una sorta anche di fuga da questa realtà, e stasera siamo proprio verso la fuga totale. Trasmissione che giocherà su un tema che potrebbe essere sicuramente interessante per molti ascoltatori: dimensioni oniriche, e si diversificherà all'interno di questo discorso onirico tra sogni statici e incubi primordiali. E dentro il discorso del sogno statico andiamo a pescare un disco storico bellissimo uscito per la Obscure, etichetta importantissima creata da Brian Eno, con dei dischi meravigliosi che sono stati prodotti negli anni 70. E parliamo di Harold Budd, grande compositore che ha sviluppato molti lavori molti molto interessanti fino insomma a questi ultimi anni. Ha iniziato la sua carriera già dagli anni 60 con questo splendido disco The Pavilion of Dreams del 1975, dove l'aspetto onirico emerge in maniera assolutamente lampante nel fraseggio musicale, nell'atto compositivo e anche nel suono che esplora lo stesso Harold Budd con il piano Rhodes e situazioni melodiche ed estatiche che emergono in tutto il percorso sonoro. Harold Budd, dunque, ce l'andiamo subito a gustare, anzi a immergerci dentro questa dimensione onirica, questo sogno estatico, da Pavilion of Dreams 1975, e poi continuiamo il nostro percorso anche attraverso degli incubi, però primordiali. Lasciamo il dubbio per la spiegazione successiva. Buon ascolto. Thank you. Thank you. era da lasciare finire completamente questa traccia splendida di Errol Budd. Ricordiamo ancora l'album uscito per la Obscure, The Pavilion of Dreams, splendido album che appunto nella traccia di apertura, quella che abbiamo appena ascoltato, esplora direi in maniera assolutamente efficace le dimensioni oniriche e la dimensione del sogno estatico. Basta appunto immergersi nel flusso di questo percorso sonoro, di questa dimensione sonora costruita da Errol Budd, per immergersi appunto in visioni oniriche, in dimensioni appunto più legate al sogno che alla dimensione della realtà. Errol Budd dunque come apripista in questo percorso sonoro che cercheremo di sviluppare in questa serata, possiamo dire pre-natalizia o pre-fine anno, e appunto l'idea del sogno, ma anche dell'incubo che troveremo, anche se un incubo primordiale, per cui questo aspetto quasi di ricerca, di ritorno alle origini, ai primordi dell'essere umano, comunque della natura, del nostro bel globo abbastanza bruttito da noi umani e non solo, dà un'idea anche differente dell'incubo. Infatti nel prossimo progetto che andremo a presentare l'idea dell'incubo è in un'ottica prettamente primordiale. Parliamo di una formazione non particolarmente conosciuta ma interessante per le sue ricerche legate agli aspetti ritmici tribali, ai ritualismi legati soprattutto alla tribalità, l'aspetto appunto primordiale, soprattutto africano, ma non solo. Si tratta di due percussionisti, Lu Cicotelli, di chiare origini italiane, e Richard Olatunde Becker, di origine appunto africana, che hanno costruito e costituito questa formazione, gli Eardrum. Nata all'inizio degli anni 90, continua a sviluppare le sue ricerche sonore, costituite fondamentalmente su lavori percussionistici, con forti ispirazioni legate al free jazz, all'afrobeat, ma anche alla musica concreta, e per alcuni versi anche una sorta di richiamo, di riferimento anche a una certa industriale che ha sempre avuto come riferimento anche ossessivo, martellante, inquieto l'aspetto tribalista e l'aspetto legato appunto alla primordialità. E questo aspetto industriale è chiaramente anche identificato in alcune riflessioni degli stessi autori, soprattutto in un album che non andremo ad ascoltare stasera, proprio dei primi anni zero. Il disco invece che andremo adesso ad ascoltare dentro un po' questa ottica di incubo primordiale è il disco Side Effects, uscito nel 2001, dove appunto una linea ritmica molto marcata, molto ossessiva, molto scura, dà l'idea appunto di una sorta di tunnel primordiale che può anche ricordare un incubo, ma in una visione abbastanza anomala. Ce ne andiamo dunque a sentire Eardrum e continuiamo il nostro percorso nelle dimensioni oniriche. 451 frammenti sonori. The top vedo veramente anche questo flusso, questo tunnel percussionistico e tribalista nonché primordiale di questa formazione, assolutamente da seguire, anche se purtroppo da un po' di anni sta mancando all'appello, probabilmente si è sciolta, ha avuto un periodo abbastanza intenso che ha attraversato la metà degli anni 90 fino ai primi anni zero, però purtroppo da intorno al 2005 hanno smesso di far uscire materiali. Airdrum, appunto, ricordiamo anche un aspetto interessante che qualcuno forse avrà anche notato nella elaborazione sonora, il forte trattamento anche elettronico post produzione sulle stesse percussioni, con effetti e con trattamenti assolutamente interessanti che appunto rendono sgranato anche il suono, molto scuro, molto effettato, e appunto per questo aspetto tecnico anche molto inquietante, molto scuro. E da Airdrum ci avviciniamo ora invece a una formazione dentro la dimensioni oniriche che stasera affrontiamo come 451 frammenti sonori, e colgo l'occasione, citando il nome della trasmissione, di ovviamente ricordare anche gli ascoltatori, soprattutto nel periodo in cui noi non andremo in onda, che probabilmente abbraccerà circa 2 settimane da oggi, che potrete trovare le ultime trasmissioni, comunque tutti i materiali da ottobre 2009 fino ad oggi legati alle trasmissioni che abbiamo appunto mandato in onda su Radio Città del Capo, sul nostro blog, nonché le scalette di diverse trasmissioni, non tutte, anche altri materiali video, nonché la possibilità di potervi scaricare ed ascoltare le trasmissioni in MP3. Il nostro blog è sempre 451frammentisonori.noblogs.org, se volete qualche volta anche scriverci è ben gradito. E da Airdrum, ritornando al nostro filo rosso connesso alle dimensioni oniriche, andiamo a trovare una formazione assolutamente interessante che ha avuto anch'essa vita ancora più breve forse degli Airdrum, perché il suo percorso sonoro e progettuale è durato per circa 5 anni. Una formazione anche questa non conosciutissima, ma per gli amanti di certi personaggi musicali che hanno attraversato gli anni 80 in maniera anche piuttosto anomala e particolare, sicuramente forse ricorderanno. Parliamo di Orang, costituiti nel 1993 a Londra, in Inghilterra, da Paul Webb e Lee Harris, che erano il batterista e il bassista di una famosissima formazione pop elettronica, anche se la definizione è abbastanza limitativa, assolutamente interessante e anche geniale per molti versi, che erano i Tok Tok. Ecco, i due elementi di questa formazione hanno costituito questa compagine, questo progetto all'inizio degli anni 90, che è durato per 4-5 anni, che si è mossa su dei terreni assolutamente sperimentali. Già si notava in certi album dei Tok Tok, soprattutto nell'ultimo, le vene sperimentali e le deviazioni musicali rispetto alla traccia più famosa di questa formazione degli anni 80, e hanno costituito appunto questo progetto che ha portato avanti veramente coloriture sonore musicali molto diversificate, passando dall'ambient all'elettronica anche più estreme e sperimentale, a dimensioni jazzistiche e a dimensioni sonore anche difficilmente catalogabili. È un disco particolarmente, può entrare molto bene dentro il discorso onirico, almeno come sensazione e dimensione sonora. Si tratta di Fields and Waves, uscito per la ITIT nel 1997, dove appunto il duo porta avanti il suo discorso ipnotico con delle ritmicità addirittura tecnoidi o paratecnoidi, e un'elettronica sempre molto ben presente, ma sempre molto ben miscelata con strumentazioni analogiche e anche acustiche, come contrabbassi e batterie, che riescono molto bene a interfacciarsi a delle ritmiche alle volte invece che hanno una matrice più prettamente legata alla dimensione techno e a una dimensione più squisitamente elettronica. Ci andiamo ad ascoltare una traccia che ben si addice al percorso sonoro di dimensioni oniriche, e ovviamente ci ritroveremo dopo il brano per la corsa finale alla prima parte di 451 frammenti sonori prima del GR di Radio Popolare Network. Intanto, O-Rang, Fields and Waves. e siamo rientrati in diretta dopo questo brano di Orang. Ricordiamo ancora un pezzo importante, questa formazione della famosissima formazione dei Tok Tok, e da Orang ci spostiamo verso una dimensione che mischia, diciamo, i due elementi delle dimensioni oniriche che cerchiamo di estrinsecare stasera a livello sonoro, cioè il sogno estatico ma anche l'incubo primordiale. Parliamo di un autore, compositore newyorkese molto eclettico, David Simmons, che per alcuni anni, piuttosto giovane oltretutto questo compositore, sta facendo uscire i suoi lavori per la Zadig, etichetta sempre attenta a questo tipo di sonorità, soprattutto quelle che cercano di dialettizzare, di mettere in contatto, di quasi ribaltare anche certi assunti delle musiche tradizionali quasi impossibilitate naturalmente interfacciarsi con la tecnologia, con l'aspetto elettronico. Bene, David Simmons, come la Zadig spesso cerca di esplorare questo territorio, mette in comunicazione sonorità, strumenti e suoni legati a tanti oggetti e strumentazioni tradizionali di tutte le parti del mondo, con l'aspetto elettronico e anche su dei canovacci costituiti da composizioni molto vicine alla scrittura della musica contemporanea. E David Simmons, nell'album uscito nel 2004, forse quello più riuscito secondo molti critici appassionati, Prismatic Earring, riesce molto bene in questo tipo di lavoro. Lavora molto con il computer, con la strumentazione elettronica, e mette appunto interfaccia in treccia anche molti strumenti tradizionali, in particolare il gamelan, ma anche vibrafoni e strumenti tipo vibrafoni e violoncelli molto più antichi, che si diverte anche a manipolare proprio fisicamente. E questo David Simmons riesce in questi ultimi anni, oltre a questo disco uscito nel 2004, a far uscire anche un altro paio di album sempre per la Zadig, dove invece si interessa nella ricerca anche di strumentazioni semi sconosciute, attraverso archivi, attraverso percorsi assolutamente incredibili, facendo delle ricerche proprio anche nei siti di molte nazioni, di molti paesi lontanissimi dalla Babele newyorkese. Ma è anche interessante questa idea, da una grande metropoli riuscire appunto a coniugare un aspetto futurista della città di New York, molto connessa alla tecnologia, molto vicino a un'idea di futuro quasi connesso strettamente al presente vissuto, con dimensioni legate al passato, a suoni primordiali, a dimensioni che però lo stesso Simmons spesso riesce a sviluppare dentro l'idea del sogno estatico. Ci andiamo a sentire proprio da questo disco il brano di chiusura di questa prima parte, poi rientreremo dopo il GR di Radio Popolare Network intorno all'1:10. Buon ascolto e a risentirci dopo.